Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, è brutto dirlo, ma fummo facili profeti quando tre settimane fa indicammo nel movimento di Bolloré su... Cosa c'entra Bolloré adesso? Un attimo. Su Mediaset l'inizio forse di una partita più grande che avrebbe coinvolto anche le generali, non perché Bolloré in questo caso c'entri direttamente, ma insomma... era chiaro che qualcosa si sta muovendo anche per il ruolo dello stesso Bolloré, non tanto in Mediaset a questo punto, quanto come azionista di Mediobanca, perché ricordo sempre che Bolloré è il secondo azionista di Mediobanca all'8%. E che cosa è successo oggi? Beh, è successo questo, che non solo ieri a sorpresa, come vi raccontavo nei nostri GR24, sono state le generali a comprare una quota di Intesa San Paolo il 3% e non viceversa come il mercato speculava. Adesso si continua a ragionare su un doppio fronte, e cioè Intesa San Paolo con Allianz, tra virgolette, contro eventualmente un'ipotesi Mediobanca con AXA e generali. Il titolo generali guadagna il 9,12%, il titolo Mediobanca guadagna il 6,26% e sono i due titoli più forti oggi. Domani c'è il Consiglio di Amministrazione delle Generali che potrebbe segnare l'uscita della compagnia dell'attuale direttore generale e responsabile finanziario Alberto Minali. Venerdì c'è il Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo, però faccio notare che appunto sia generali che Mediobanca sono i due migliori titoli e per contro Intesa San Paolo meno 4,70%. La domanda che viene posta da molti ascoltatori è: ma perché è stata generali a comprare Intesa? Perché secondo la legge Draghi scatta il vincolo delle partecipazioni incrociate, ossia è stata una mossa preventiva secondo la lettura di molti analisti. Se tu compri il 3% di Intesa, blocchi qualunque tentativo di scalata da parte di Intesa San Paolo su di te, a meno che Intesa San Paolo non voglia, ma cosa che mi sembra altamente improbabile adesso, non voglia lanciare un'offerta pubblica. La legge Draghi infatti prevede che a questo punto Intesa non possa comprare più del 3% delle generali, pena il congelamento dei diritti di voto e che nessuno va a comprare azioni senza poter votare in assemblea. Questo appunto la legge Draghi nel 1998, le norme sulle partecipazioni incrociate. Ricordo che già nel 2006 l'allora amministratore delegato di Capitalia, Matteo Arpe, sempre nei confronti di Banca Intesa, temendo una scalata di Intesa su Capitalia, comprò lui per primo il 2%, e obbligando quindi Intesa a non poter comprare più del 2%. Questa è la legge delle partecipazioni incrociate. E quindi la mossa delle generali di ieri è sembrata una mossa di difesa nei confronti del tentativo o dell'ipotesi di una scalata azionaria da parte di Intesa San Paolo. C'è una domanda di fondo, e vi arriveremo tra poco, ma perché viene ritenuta dalle generali ostile o comunque tale da doversi difendere un eventuale aumento della quota di Intesa San Paolo in generali, mentre mai abbiamo assistito a questa azione quando per settimane, nelle scorse settimane, si ragionava di un possibile asse AXA, cioè i francesi di AXA, coadiuvato da Mediobanca sulle generali? Traduco: non è che è considerato più ostile un italiano come Intesa San Paolo e meno ostile un francese come AXA, Intesa San Paolo con Allianz? È una domanda che è legittimo porsi, anche perché un marziano che fosse sceso in questo paese direbbe: beh, ma io, se dovessi rimescolare le quote dei generali, preferirei un ingresso di una banca sistemica italiana che di un colosso assicurativo francese che è il numero due e che continuerebbe quella che alcuni chiamano la colonizzazione francese in Italia, dopo tutte le vicende del lusso, dopo la vicenda Luxottica, che non è colonizzazione, abbiamo spiegato, dopo la scalata ostile di Bolorea Mediaset, dopo che Pioneer è andata a Crédit Agricole, insomma dopo che i francesi hanno comprato pezzi importanti di questo paese, nulla di male, ma vorrei capire perché diciamo, l'arrocco dei generali venga fatto nei confronti di una banca italiana. È una domanda che resta nel vuoto, ma la lascio come spunto di riflessione. Di questo, come avete capito, ci occuperemo subito in apertura. Poi parleremo anche invece di un tema che ci riguarda molto, i diritti per quello che si chiama l'industria culturale italiana, non solo come musei, siti archeologici e artistici, ma anche per la parte creativa, quindi musica, prodotti, contenuti e quant'altro. Oggi un importantissimo punto è stato fatto con la SIAE e in una ricerca di Hannes Jung, sia per arrivare anche a far pagare, se posso dire tutta, quelli che utilizzano i contenuti prodotti da altri per riempire di contenuti i loro siti o i loro social networks, più il tema della pirateria. Infine, sempre in tema di cronaca della giornata economico-finanziaria, ci sposteremo a Londra, dove la Corte Suprema ha disposto oggi in via definitiva che la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona dovrà essere autorizzato da un voto del Parlamento britannico, quindi dà torto al governo May e conferma quello che aveva già deciso in primo grado l'alta Corte di Giustizia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, partiamo dall'economia internazionale, dove la maggioranza degli americani oggi ha bocciato le prime decisioni. Non è mai successo nella famosa honeymoon, nella luna di miele dei primi 100 giorni, che un presidente non raccogliesse almeno metà dei consensi. Solo il 45% degli americani apprezza il lavoro svolto da Donald Trump. Un abitante della California su tre vorrebbe la Cal-Exit, la California Exit. Qui siccome siamo un po' nella fanta politica, un sondaggio della Reuters, sono il 32% i californiani, il 12%, un più 12% rispetto al 2014, che vorrebbero staccarsi, diciamo, dal resto degli Stati Uniti. Viene spiegato come un'ostilità molto forte in tutta la California verso Trump, e molti dicono sarebbe più intelligente lasciare l'Unione degli Stati Americani che continuare a combattere. Trump nel frattempo ha ricevuto il leader, questa volta oggi, delle case automobilistiche, Ford, General Motors, Fiat Chrysler. Voglio nuovi impianti da costruire qui per auto vendute qui, dice Trump. E ancora, vogliamo riportare l'industria manifatturiera negli Stati Uniti e posti di lavoro di lungo termine, renderemo più facile fare business. L'ambientalismo è fuori controllo. E ha detto: io sono ampiamente un ambientalista, ma le regole che ci sono non vanno bene, in alcuni casi sono assolutamente folli e bloccano, frenano lo sviluppo dell'industria e dell'economia americana. Ancora, invece, va avanti, tira dritto Donald Trump sull'uscita degli Stati Uniti dal TPP, ossia del trattato Trans-Pacific, quello che prevedeva il libero scambio per tutta l'area del Pacifico. Lui ieri ha firmato l'atto di ritiro degli Stati Uniti dal partenariato. Oggi scopriamo che l'Australia nel frattempo sta cercando di trovare un altro accordo con i paesi che sono rimasti, cioè Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, per salvare, anche senza una partecipazione, a questo punto senza la partecipazione statunitense, per salvare ciò che resta del trattato di libero scambio. E poi la Cina, che dice di essere risoluta a far valere i suoi diritti nel Mar Cinese meridionale, scintille insomma tra Cina, tra Pechino e Washington. Andiamo invece sulla Gran Bretagna, dicevo del fatto che ha avuto torto Theresa May, deve votare il Parlamento. Occorre quindi un voto parlamentare per dare l'ok alla procedura dell'articolo 50, quella dell'uscita della Gran Bretagna dal, dall'Unione Europea. Niente veto invece ha escluso qualunque potere di veto da parte dell'Assemblea di Scozia, Galles e Irlanda del Nord sulla Brexit. E ancora il governo britannico ha detto, beh, insomma, il veto non boccia, non blocca l'uscita dell'Unione Europea. Festeggia invece quella che viene considerata la rivale di Theresa May in questo momento, e mi riferisco a Gina Miller, la donna d'affari che aveva sfidato sul piano legale il governo di Theresa May. E ancora su questo è anche il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, ha detto è sempre più chiara la necessità di un secondo referendum sull'indipendenza della Scozia e della Gran Bretagna. Comunque, sulla sentenza della Corte di Giustizia britannica si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il governo britannico è stato sconfitto, il Parlamento è sovrano e deve avere l'ultima parola su Brexit, parola della Corte Suprema che ha pronunciato la sua sentenza, 8 giudici contro 3, che si allinea peraltro con il verdetto dell'Alta Corte. Quindi i deputati di Westminster devono essere consultati sui tempi e i modi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. È una decisione certamente importante che peraltro dà conto anche di un efficacissimo sistema di bilanciamento di poteri proprio della democrazia britannica. Ma tutto ciò ora apre la strada a tempi più lunghi per l'uscita di Londra dall'Unione Europea ed è una doccia fredda per la Premier May, che pochi giorni fa aveva usato toni ai limiti della minaccia per dar conto della scelta irreversibile dei britannici per una cosiddetta hard Brexit, vale a dire per un'uscita di scena dal mercato unico, dall'unione doganale, oltre che per un inasprimento delle condizioni di libera circolazione delle persone tra Europa e Gran Bretagna, e peraltro per un futuro da paradiso fiscale proprio nel cuore della vecchia Europa. Ora la parola passa al Parlamento, dove la maggioranza dei deputati era contraria all'uscita e favorevole al Remain. Non ci sarà però un capovolgimento di fronte, ma certo è immaginabile una diversa tabella di marcia rispetto ai tempi brevi che aveva immaginato la May. Si sa già che servirà una legge per dare il via libera ai negoziati previsti dall'articolo 50 del Trattato Costitutivo dell'Unione Europea, e proprio sulla messa a punto del testo si cimenteranno quindi i partiti, e si sa già che sarà una grande corsa agli emendamenti per mettere a punto un disegno di legge che stemperi notevolmente i caratteri di hard Brexit che invece vorrebbe il governo. Ciò che è sicuro è che è venuto meno il tempo delle minacce e si fa largo quello della riflessione. Forse anche i britannici sanno che non è poi un grande destino quello di diventare una piattaforma per l'evasione fiscale di tutto il mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, 17:24 minuti, il primo tema, che è il tema anche più corposo. Generali guadagna quasi l'8,5%, adesso Mediobanca al 6,20%, guardate che muovere un titolo come Generali dell'8,5%, lo ricordavamo anche ieri, non è come muovere, con tutto il rispetto, titoli più sottili, vuol dire che stanno passando di mano volumi pesantissimi. È stato fatto un calcolo che l'operazione di Generali su Intesa ieri è costata circa 1,2 miliardi di euro, adesso chiedo verifica, però attenzione. Qui abbiamo il primo gruppo assicurativo in Europa che si chiama Allianz, il secondo gruppo assicurativo in Europa che si chiama AXA e il terzo gruppo assicurativo in Europa che si chiama Generali, ossia abbiamo Germania, Francia e Italia. Dentro le Generali chi è l'azionista di riferimento? L'azionista di riferimento si chiama Mediobanca con il 13,5%. Dentro Mediobanca chi c'è? C'è anche un francese che si chiama Bolloré, e io poi qui mi continuano a scrivere del fatto che anche Donet, il numero uno di Generali, sia francese, e Moustier, il numero uno di Unicredit, sia francese, però possiamo stare ai fatti e non al passaporto, anche se lo so che il sospetto poi viene. Perché lo dico? Perché di Mediobanca il primo azionista è Unicredit con l'8,5%, quindi Moustier, il secondo azionista è Bolloré con l'8%. Che cosa succede? Succede che ieri iniziano a circolare voci molto forti, tant'è che il titolo ne prende atto e cresce parecchio, di un interessamento di Intesa nei confronti dei Generali, che chiaramente sarebbe alternativo, secondo la lettura fatta ieri, invece a un rafforzamento francese su Generali, perché nelle settimane scorse molto si è detto di un eventuale alleanza tra Generali e AXA. AXA è il gruppo da cui viene il numero uno delle Generali. E allora, siccome Intesa San Paolo non è della partita, cioè non è dentro questi incroci azionari, si dice perfetto, Intesa San Paolo si vuole lanciare un'operazione di acquistare una quota delle Generali per opporsi a un eventuale, diciamo, scivolamento delle Generali verso il fronte francese, quindi verso AXA, di cui molto si era discusso nei giorni scorsi. Anche perché, essendo Mediobanca l'azionista principale, sarà molto sensibile a quello che vuole il secondo azionista Bolloré e quindi al tema francese. Peccato che ieri sera, invece che scoprire dalle comunicazioni che Intesa ha comprato una quota dei Generali, scopriamo l'esatto opposto, cioè che le Generali hanno comprato il 3% di Intesa. La legge Draghi del 98 prevede che a questo punto, per la legge sulle partecipazioni incrociate, se Intesa non possa comprare più del 3%, perché pena è la sterilizzazione dei diritti di voto. Quindi la mossa delle Generali viene letta da tutti come una mossa preventiva, come dire: ah, tu mi vuoi comprare? Io ti compro prima per una quota del 3%, così ti obbligo a non poter salire oltre il 3%. So che può sembrare complicato, ma qua stiamo giocando la partita delle partite sulla finanza italiana. Lo dico senza retorica, perché dentro le Generali, con 500 miliardi di asset, c'è tutto. C'è l'assicurazione di sistema, c'è il gruppo assicurativo che viene chiamato anche per operazioni di carattere nazionale quando c'è da, diciamo, comprare obbligazioni piuttosto che mettere i soldi da qualche parte, c'è il terzo gruppo assicurativo d'Europa, c'è un gioiello italiano e c'è Mediobanca, qui interno poi si snodano altre partecipazioni. La domanda che vorrei rivolgere, da un lato a Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, che ha saluto, buonasera Antonella. Buonasera. E dall'altra a Marco Ferrando, sempre del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E vorrei partire da Marco, anche se dovrebbe essere di solito ladies first, ma stavolta faccio un'eccezione. Perché, se tutta questa lettura è corretta, le Generali sentono il bisogno di difendersi nei confronti di Intesa San Paolo e dire: bene, compro il 3%, in modo che se tu mi stai comprando azioni ti obbligo al massimo ad arrivare al 3%, perché questo prevede la legge Draghi sulle partecipazioni incrociate, cioè tu non puoi avere una quota più grande di me di quella che ho io di te, una volta che io ho fatto la prima mossa. Perché sentono le Generali e quindi Mediobanca, perché il primo azionista, immagino che l'indicazione sia arrivata anche da lì, di difendersi contro Intesa San Paolo, che fino a prova contraria è la banca più italiana che c'è, insieme a un credito a partecipazione anche all'estero, ma insomma la banca sistemica, e non hanno mai sentito la necessità di difendersi contro AXA, visto che è da un mese che raccontiamo che vi potrebbe essere un avvicinamento tra le Generali e AXA. Perché non hanno comprato il 3% di AXA e hanno detto: bene, così adesso sta a vedere che blocco anche te, nel caso tu volessi scalarmi io ti impongo che non puoi avere più del 3%. Cioè, perché viene visto come ostile o pericoloso un italiano e non un francese? Ma posto che la situazione è molto fluida e quindi per ora ne sono noti solo alcuni pezzi, sicuramente se c'è bisogno di difendersi o comunque di lanciare un segnale, l'offerta viene, diciamo, non è un'offerta, perché per ora formalmente non c'è nulla, però le manovre vengono ritenute ostili. Diciamo che con questo segnale, il 3%, che in realtà non è comprato, ma hanno solo comprato i diritti, diciamo l'hanno affittato per usare, quindi non hanno speso 1,2 miliardi, ma comunque qualche bella commissione sicuramente c'è, non è una mossa gratis. Sicuramente un modo per stanare quello che al momento viene ritenuto il possibile. O bloccare anche. Bloccare, ma forse mi viene da dire più stanare, perché comunque alla fine di fatto Intesa può fare un'OPA, può fare un OPS, quindi se vuole usare le artiglierie pesanti comunque ci sarà da difendersi e non basta questa mossa per farlo. Quindi mi viene da dire più per stanare. C'era sicuramente un elemento di sorpresa, o comunque si è ritenuto che l'eventuale attaccante dovesse venire allo scoperto. Quindi cosa si che ritiene però più pericoloso Intesa San Paolo di eventuale AXA, perché sai, Intesa non aveva ancora comunicato l'acquisto di un'azione che io abbia visto, così come AXA non ha mai comunicato l'acquisto di un'azione. Però, diciamo, per non saperne leggere né scrivere, io mi cautelo. Solo che ti cauteli subito su Intesa e non l'hai mai fatto su AXA francese, da cui appunto Donè viene, ma sono tutte coincidenze. Ora, Antonello Olivieri, è chiaro che il mandante, una brutta parola perché sembra quasi un reato, ma l'indicazione di questa operazione non può non avvenire senza almeno l'ok di Mediobanca, che è il primo azionista dei generali, per non dire che è stata Mediobanca a chiederla. Gli ascoltatori, che non sono proprio delle demi vierge, delle mezze vergini, mi fanno notare che già ai tempi della Rizzoli Corriere della Sera, lo scontro tra l'accordata di Nagel Mediobanca con Bonomi e quella di Cairo con Messina ha visto perdere Nagel e Bonomi, ha visto vincere Messina e Cairo, chiaramente. Quindi che non ci sia un ottimo feeling tra Nagel, tra Alberto Nagel di Mediobanca e Carlo Messina di Intesa San Paolo, insomma, è abbastanza noto. Secondo te è da qui che nasce anche una maggiore ostilità nei confronti dell'operazione dell'ipotetica operazione Intesa, per cui io compro subito il 3% di Intesa per bloccarli e invece tutto sommato lascio correre tutte le indiscrezioni su AXA? No, sinceramente non penso. Io penso che non sia una questione di antipatia o di rivalità, perché in finanza diciamo contano sempre più gli interessi. Più che altro Mediobanca in questo momento è in una situazione di cambiamenti in qualche modo, cioè di possibili cambiamenti. Scade il consiglio d'amministrazione quest'anno, scade il patto di sindacato, che tra l'altro è solo il 31%, quindi è molto, molto risicata la quota di capitale vincolato rispetto al passato, quando era superiore al 50%. E nell'azionariato di Mediobanca ci sono due azionisti importanti in lite per la questione Mediaset, che sono Bolloré e Improprio e la Fininvest con Doris di Mediolanum. Certo, E quindi diciamo è una situazione dove potrebbe succedere qualcosa, potrebbe cambiare qualcosa. Il fatto che evidentemente si ritenga che da Intesa possa arrivare qualche insidia tra virgolette deve avere avuto qualche sospetto fondato. Noi abbiamo scritto che c'è stata una comunicazione tra tutti gli azionisti principali e ovviamente compresa Mediobanca con generali per valutare questa mossa, che sicuramente ha avuto l'assenso di tutti, anche perché in effetti non è una mossa così vincolante quella che ha fatto generale, perché prendendo un prestito titoli in fin dei conti lo può smobilizzare come vuole senza grossi danni, per cui è un deterrente. Perché non l'ha fatto nei confronti dei francesi? Diciamo che potrebbero essere due le spiegazioni: o perché sanno che non c'è niente, perché ce l'hanno, certo, perché controllano la situazione, oppure perché è vero che stavano pensando a qualcosa. O è vero che hanno più simpatia per un socio francese che per una banca italiana. Però non mi pare che Mediobanca, cioè l'unica partecipazione che è sicuramente strategica per Mediobanca e generali, non mi pare che possano avere interesse a in qualche modo cedersi l'influenza che hanno su generale. Soprattutto non è tanto il momento per un assalto francese, perché mi pare che a Bolloré stiano stendendo il tappeto rosso per andare su Mediaset in Italia, e quindi sono 50 anni per dire che poteva aver senso un'aggregazione AXA generale. Farlo proprio adesso vorrebbe dire farlo nel momento peggiore come contesto, cioè lo facevi prima diciamo della vicenda Mediaset, oppure aspetti. In questo momento non mi sembrerebbe molto intelligente da parte di AXA. Dei francesi, cioè andresti anche obbligheresti anche la politica a intervenire in maniera ancora, certo, più forte, perché l'assedio a questo punto sarebbe una certezza, fermo restando che discutiamo dei gruppi privati, ma è inutile girarci attorno. In cui alcuni gruppi privati, per il peso strategico che hanno sulle partecipazioni nell'economia e la cassa che hanno a disposizione, sono più strategici di altri. E questo stavo dicendo ça va sans dire, ma mi stavo già abituando. Credo anche che sia uno dei massimi sottoscrittori, no, di titoli di Stato. Quindi. Allora, dopo il merito della pubblicità, invece vorrei capire il perché della reazione della borsa, così ci avviciniamo anche alla borsa, perché Generali guadagna alla fine in chiusura l'8,21%, Fiat Chrysler è il secondo miglior titolo più 5,60%, il terzo miglior titolo è Mediobanca più 5,60%, quindi il mercato va a comprare Generali. Qui la spiegazione potrebbe essere che si aspetta una guerra di quelle serie, e va a vendere Intesa San Paolo meno 4,5%. Qui una spiegazione potrebbe essere che si aspetta che in questa guerra di quelle serie Intesa vada a tirar fuori dei soldi e quindi vende il titolo. Vorrei sapere il vostro punto di vista dopo il metodo e la pubblicità. 349 238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. 17:40 minuti. Allora rispondiamo alla domanda che molti ascoltatori stanno facendo: ma perché, se Generali compra Intesa, oggi in borsa cresce Generali e cala Intesa? Di solito quando io compro la borsa punisce me, a meno che non sia veramente un'operazione fantastica, perché spendo dei soldi e va a comprare e quindi a far crescere il titolo che viene comprato, dicendo beh, vuol dire che ci sarà una lotta. Perché oggi capita l'esatto contrario, cioè aumenta dell'8% chi ha speso Generali o chi potrebbe ha l'opzione per spendere e cala del 4,40% chi è stato comprato? Marco. Beh, perché probabilmente la difesa rende più plausibile l'attacco e quindi se il mercato immagina che un domani Generali possa essere bersaglio di un'operazione, un'OPA, un OPS o comunque bersaglio di attenzioni da parte di Intesa o chi per essa, tipo Allianz che citavamo prima, è chiaro che il titolo è destinato ad apprezzarsi e quindi il mercato si muove di conseguenza. Il più 8 che dicevi prima non è usuale per un titolo come Generali. E quindi uno dice, beh, se poi Intesa a questo punto risponderà Generali aveva veramente ragione e quindi si è mosso in anticipo perché Intesa vuole aumentare la sua quota, io sostanzialmente mi immagino che Intesa andrà a spendere dei soldi e vendo Intesa, mi immagino che Generali verrà sempre più contesa e compro Generali. Antonio Olivieri, perché però cresce anche Mediobanca del 5,58? Ci possono essere due motivi, perché visto che gran parte del valore del titolo di Mediobanca dipende da Generali, se sale Generali Mediobanca lo riflette. Potrebbe anche essere perché magari invece la partita su Generali passa da Mediobanca, non lo sappiamo. Cioè passa da Mediobanca, cioè passa dal controllo di Mediobanca? In qualche modo, cioè voglio dire, fino a prova contraria a oggi è Mediobanca che è la porta di accesso a Generali al 13%, e fare un'operazione su Generali, a parte che costa per una banca, vuol dire anche un costo in termini di patrimonio di vigilanza. Quindi Sulla parte industriale vorrei chiudere su questo, perché poi dice, ma sì, ho capito, va bene l'operazione finanziaria, va bene il ruolo strategico, quindi il ruolo quasi politico delle Generali, anzi senza quasi, di sistemico, quindi vuol dire politico in senso lato, non di partiti, delle Generali, così come questo vale per Allianz in Germania, vale per AXA in Francia, cioè chi gestisce le assicurazioni gestisce un elemento che va al di là, diciamo, del semplice bilancio di fine anno. Però e va bene il posizionamento di potere, ma la parte industriale, Marco Ferrando, perché alcuni mi scrivono, ma Intesa ha sempre detto di essere interessata al risparmio gestito e lì c'è la componente banca Generali, ma al di là di varie speculazioni in questo momento, a mio avviso, che lasciano il tempo che trovano, l'obiettivo industriale non è per nulla chiaro. Però no, non è per nulla chiaro, non dimentichiamo che Generali comunque ha una rete, cioè ha una presenza fuori dall'Italia importante, che sicuramente è uno dei problemi di Intesa, che in questi anni ha cercato di uscire dal forzare un po' i confini nazionali senza riuscirci, quindi quello potrebbe essere un aiuto. Non sottovaluterei il fatto che, come dicevi giustamente, dal punto di vista industriale ci sono alcune domande ancora senza risposta e l'accoglienza da parte degli analisti per lo più esteri di questo eventuale disegno di Intesa su Generali non è stata positiva. E questo è un elemento da non sottovalutare, perché comunque Messina deve rendere conto al mercato e il mercato non è solo quello domestico. Il fatto che fuori dall'Italia si guardi a questa operazione molto appunto domestica, e quindi è vero tra due big player, ma comunque molto concentrata evidentemente sull'Italia, è un elemento che potrebbe avere un suo peso nella soluzione finale. Antonio Olivieri, anche per te il piano industriale, perché ripeto, l'obiettivo di potere, di sistema, di fare in modo che la centrale principale del capitalismo italiano, chiamiamolo così, Mediobanca e Generali, ripeto, ha 500 miliardi di asset, per cui stiamo parlando di una cifra enorme, che faccia gola a Intesa piuttosto che francesi, l'ho capito anch'io. Però poi, alla fine, quando tu fai un'operazione, deve avere anche uno sbocco industriale. La stessa domanda che continuiamo a farci con Bolloré su Mediaset, laddove però lì si poteva immaginare qualcosa di più semplice, Bolloré che vuole allargarsi nel tema dei contenuti, abbiamo detto mille volte. Qui io non riesco ancora a capire perché la Banque Assurance, termine francese non a caso, che piace molto ai francesi, cioè una l'unione tra chi fa banca, chi fa assicurazioni, mi sembra che negli ultimi anni sia passato un bel po' di moda, era molto in voga 10 anni fa, 15 anni fa, prego. Sì, è così, però è anche detto, cioè, c'è anche da dire che Intesa comunque ha una compagnia nel ramo vita. E come non ce l'ha? Può darsi che si stia studiando qualche mezzo per valorizzare quello. Poi, come dicevi tu, il discorso del risparmio gestito effettivamente è un altro target. Di fatto l'Italia come sistema ha perso Pioneer. No? Che è andato ai francesi, e ha venduto Unicredit recentemente, quindi può essere che prima che succeda qualcosa Intesa possa avere interesse a presidiare le aree dove pensa di poter guadagnare, però siamo tutti nel campo dell'ipotesi, perché finora non abbiamo da commentare nulla di concreto se non questa azione preventiva di Generali. Assolutamente, è l'inizio di quella, poi mi sbaglierò, ma di quella che sembra una battaglia anche di posizione, di logoramento. Poi vedremo, magari stasera commentiamo tutt'altro, ma dubito, insomma. Sembra una battaglia che vede così tanti soggetti, così tanti pesi incrociati. Noto due cose, poi sto zitto perché c'è il traffico, perché vengo pagato anche per parlare. Noto il silenzio del governo. È interessante questo, perché il governo è intervenuto molto quando ci fu Bolloré su Mediaset, due soggetti privati, quindi non si capisce perché adesso non abbia nulla da dire su Generali, Intesa, sulle ipotesi e su questo arrocco di Generali nei confronti di Intesa. E noto un silenzio anche negli altri azionisti delle Generali. Cioè, vogliamo aggiungerci la Consob? Perché forse qualcosa da chiarire potrebbe anche esserci. Perché se il Generale fa una cosa del genere, forse qualche sospetto ce l'ha. Magari che qualcuno dica perché, chiede un arbitro che chieda. Che sta succedendo? Chi sta comprando? Quante azioni? Adesso racconteremo con l'appuntamento di borsa quante azioni sono passate, ai blocchi, non ai blocchi. E quant'altro, con che volumi. Intanto grazie per il lavoro, e domani leggeremo anche gli altri sviluppi come sempre su Sole 24 Ore. A Marco Ferrando e Antonello Olivieri, andiamo sul traffico. Focus Economia. Minuti, molti ascoltatori mi chiedono perché tutto adesso, ragazzi, tutto adesso. Allora, un po' è anni che diciamo che c'è tanta liquidità in giro e l'Italia è tra i paesi che offre aziende, anche belle, a titolo di sconto, un po' a prezzo di saldo, quindi qualcosa di immaginabile. Poi, non mettiamo tutto assieme mele con le pere, un conto sono i gruppi del lusso, un conto sono i gruppi industriali, un conto è medici, cioè in alcuni casi sono mancati i capitali italiani, non si è mai fatto avanti un imprenditore italiano, in altri casi invece non è questo, penso alla vicenda Mediaset, c'è stata una scalata forse poco gestita all'inizio da parte ostile, da parte di Bolloré, che ha un obiettivo industriale lì abbastanza chiaro, e poi nel caso Generali è potere, diciamo, è finanza pura, con tutte le ricadute poi che ha però sul sistema paese. E poi ci sono momenti della vita in cui le cose capitano, in Francia si va verso elezioni, probabilmente, non lo so, alcuni mi scrivono se questo possa rendere più liberi i capitani di ventura francesi, forse, non ho la minima idea se il fatto che Hollande ormai sia un ricordo de facto, anche se ha ancora qualche mese di presidenza, renda più libere le operazioni non concertate tra Roma e Parigi. L'Italia stessa ha un governo di transizione che bene che vada arriverà al 2018, e forse risulta anche più facile immaginare politicamente una scorribanda, non lo so. E poi ci sono momenti nella vita in cui le cose capitano, da quando io faccio sto lavoro che sento parlare di un'eventuale scalata alle Generali e di chi controllerà Mediobanca, sono un po' di anni, perché da lì passa tutto, e quindi non ho neanche più memoria di quante volte ho sentito parlare di indiscrezioni scalata sulle Generali. I mercati, Andrea Fontana, Radio Call, buonasera. Buonasera Sebastiano. Abbiamo detto, penso, quello che si poteva dire, notizie alla mano su Generali e e Intesa San Paolo. Sì, mi permetto di aggiungerti un elemento: è uscita un'indiscrezione pochi minuti fa, secondo il quale la Consob, visto che richiamavate tu e il collega Ferrando, avrebbe probabilmente convocato per i prossimi giorni i vertici generali di Intesa San Paolo e di Unicredit. È un'indiscrezione, quindi te la rilancio come tale, ma mi sembrava A me sembra il minimo, no? Il commento lo faceva Antonello Olivieri, mi sembra il minimo, cioè sta capitando di tutto, un titolo che è pesantissimo in borsa, quindi muoverlo ci vuole veramente una leva pesante, ha preso l'8,20% dopo aver preso il 5% ieri, mi riferisco ai generali, un titolo come Mediobanca ha preso il 5,60%, un titolo come Intesa San Paolo, altro titolo pesante, ha perso il 4,42% e la Consob che fa? Vorrà vederci chiaro? No, almeno per evitare che qualcuno si avvantaggi di notizie anche riservate, chiedo. Comunque, senti Andrea, i volumi e passaggi ai blocchi eventuali. Sì, i volumi sono molto consistenti per le generali, il 3% del capitale è il massimo da una seduta di settembre in cui non passava una quota, cioè di questo è passato tipo di mano esattamente quello che è l'acquisto di generali su Intesa. Praticamente sì, esattamente, quasi 50 milioni di pezzi trattati. Per quanto riguarda Mediobanca e Intesa San Paolo, quindi due i soggetti protagonisti in prima fila di questa operazione, è passato il 2% di Mediobanca, poco più del 2% di Mediobanca e il 2% di Intesa San Paolo. I movimenti ai blocchi invece non sono visibili, perché poi da qualche anno sono visibili direttamente dalle SIM e non diciamo dalle Ma se segnalava qualche passaggio strano ai blocchi, no? No, non sono stati segnalati passaggi in particolare ai blocchi. Comunque, quote importanti, quindi avete fatto un calcolo di quanto vale più o meno il 3% dei generali? Adesso poi possiamo farlo anche noi, ma se lo giusto per capire quanto... Il 3% delle generali passato sono di mano oggi. 48 milioni... di pezzi per, lo sto facendo, per 15 sono 780 milioni di euro. Ok, quindi quasi 800 milioni di euro di controllo. Allora adesso magari mentre andiamo sugli altri titoli rifacciamo il calcolo anche noi, prima che gli ascoltatori arrivino a dire avete sbagliato il calcolo. Comunque andiamo avanti con le altre notizie. Fiat Chrysler, dopo l'incontro con Trump, da parte di Marchione chiaramente, il titolo guadagna il 5,90%, è una coincidenza? No, sicuramente l'attenzione sul settore auto oggi è stata forte e Fiat aveva bisogno di recuperare molto, diciamo che è abbastanza simbolico e significativo di come con questo rialzo si sia un po' messi alle spalle quella caduta, quasi completamente quella caduta relativa all'inchiesta americana, ed è simbolico e significativo che sia avvenuto nel giorno del colloquio con Trump e quindi con il passaggio di consegna alla nuova amministrazione americana. Il titolo ai massimi quasi da due anni, da marzo del 2015, Marchionne ha detto di essere contento di aver lavorare con l'amministrazione Trump, e Trump ha chiesto ai principali costruttori americani gli investimenti, come c'era da attendersi, negli impianti negli Stati Uniti in cambio di qualche sgravio fiscale, e soprattutto è stato molto critico sulle misure sul fronte ambientale, e quindi questo, che per questo momento è il tallone d'Achille della questione Fiat Chrysler negli Stati Uniti, ha costituito un sollievo importante certo, anche per il titolo certo. E anche per Exor, che ha guadagnato il 4,70%. Banca Mediolanum un più 3,30, qui penso che però la parte riguardi ancora insomma quanto raccontavamo prima, oppure ci sono notizie forti. Oggi va bene, devo dire, tutto risparmio gestito per inciso, Sì, due sono i fattori, sicuramente la questione di un asse ipotizzato Banca Generali Fideuram nel caso appunto dell'operazione Generali Intesa tiene vivo un po' tutto il settore. Dall'altro canto, in discrezione di oggi, ci si aspetta che Anima, altro gruppo del risparmio gestito, oggi ha guadagnato il 7%, possa presto concludere l'acquisto di Aletti Gestielle, la società di gestione del risparmio del gruppo Banco BPM, che già da tempo tempo era in predicato di poter essere venduta, quindi si vedono operazioni di vario tipo sempre nel settore. L'altro giorno peraltro anche gli analisti di Mediobanca vedevano molti spazi di crescita tra i clienti a grandi patrimoni, ecco perché Mediolanum, ma anche Fineco Bank e Azimut sono stati tutte migliori del listino, migliori dell'indice oggi. Allora, grazie intanto Andrea Fontana. I migliori e peggiori dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. :08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mancavano i migliori e peggiori di borsa, visto che la prima ora l'abbiamo dedicata tutta alla borsa, ossia alla vicenda Generali e Intesa San Paolo, con, ripeto per chi si fosse appena messo in collegamento, il botto di Generali più 8,20%, passato di mano invece il 3% di Intesa San Paolo, che perde il 4,42%, molto forte anche Mediobanca più 5,60%. Abbiamo fatto un calcolo: 720 milioni di euro il controvalore di quello che è stato scambiato oggi su Generali. Non è poco, eh? Comunque, migliori e peggiori: Innovatech più 50%, Sintesi più 32%, CHL più 31%, Fulsix più 22%, e poi TAS più 17%. I migliori, peggiori: allora, Energy Lab meno 6%, Risanamento meno 5,60%, Mondadori meno 5%, e poi dicevamo di Intesa San Paolo meno 4,40%. Verremo fra poco alla Brexit, a quello che è successo in Gran Bretagna, però vorrei, come avevo anticipato, occuparci anche tra virgolette di noi. Perché? Perché oggi è stata presentata a Milano la seconda edizione dello studio Italia Creativa, realizzato da Ernst Jung con il supporto delle principali associazioni di categoria, quindi il Ministero ai Beni Culturali e Artistici e Turismo e la SIAE. Sono intervenuti tra l'altro il vicepresidente di Confindustria Antonella Mansi, Filippo Sugar, presidente di SIAE, e Donato Iacovone, amministratore delegato di Ernst Young Italia. Devo dire che l'industria creativa e culturale italiana è il terzo settore per occupazione nel nostro paese, con 880.000 occupati diretti e un valore economico di 48 miliardi di euro nel 2015, più 2,5%. Però quello che è emerso oggi è che il settore potrebbe generare risultati ancora maggiori, si va a un valore potenziale di 72 miliardi se riesce a contrastare alcune minacce come il value gap, di cui parleremo tra un attimo, e la pirateria. Qui stiamo parlando infatti di industria culturale, non solo come industria del turismo e come altre volte abbiamo fatto, penso agli Stati Generali della Cultura, che organizza ogni anno Sole 24 Ore i beni culturali in senso stretto, quindi beni archeologici, siti archeologici, musei, quindi l'offerta museale e l'offerta artistica di questo paese. Ma stiamo parlando anche di tutto ciò che ruota attorno ai contenuti, ecco perché ci riguarda da vicino, e anche all'industria musicale, quindi la parte creativa, allargando l'orizzonte. Su questo il ministro Franceschini, intervenuto, ha sottolineato l'importanza dell'industria culturale in questo paese. Questi numeri dimostrano davvero l'importanza per il nostro PIL e le potenzialità per il futuro. Però mi pare che siano successe anche delle cose che hanno dimostrato che fuori dai confini di chi si occupa di cultura, perché quelli che si occupano di cultura da anni, da decenni, sanno l'importanza e le potenzialità di questo settore e semmai hanno sofferto nel vedere una certa disattenzione del resto del sistema. Alcune cose sono avvenute. Veniva ricordato il fatto che, non io, ma il Ministro della Cultura sia stato invitato come relatore all'Assemblea di Confindustria qualche anno fa. All'Assemblea Generale non era immaginabile. avete letto qualche settimana fa un bellissimo articolo del governatore della Banca d'Italia, cui parla della forza della conoscenza e della creatività come fattore trainante dell'intera economia italiana. Sono aumentate le risorse nel confronti del Ministero, sono state approvate delle leggi importanti. Insomma, io penso davvero che sia venuta emergendo una consapevolezza che è uscita dai confini di chi si occupa di cultura, cioè che questo settore è uno dei settori trainanti della crescita del nostro Paese. Allora, siamo in collegamento con Filippo Sugar, che è presidente della SIAE. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Presidente, dicevamo già, insomma, del potenziale dell'industria culturale italiana e industria creativa e culturale. Noi ci occupiamo con gli Stati Generali della Cultura ogni anno del patrimonio culturale italiano, quindi patrimonio archeologico, artistico, museale, e quella è la parte, diciamo, più toccata in maniera positiva dall'Art Bonus voluto dal ministro Franceschini, che erano uno dei cavalli di battaglia del nostro manifesto della cultura. Però oggi vi siete concentrati anche sulla parte più creativa e voglio far notare che in valori economici il settore che è cresciuto maggiormente in quella che chiamiamo in senso lato l'industria culturale creativa è proprio la musica, più 10%, che ha avuto anche una ricaduta sul fronte occupazionale. Che cos'è però il value gap, ossia la differenza di valore di cui molto oggi avete discusso? Sì, assolutamente, il value gap non coinvolge solo la musica, ma molti altri settori dell'industria creativa, ma sicuramente la musica ne soffre in maniera particolare. Che cos'è in parole semplici? Noi produciamo dei contenuti, musica, cinema, serie televisive, eccetera. Questi contenuti sono utilizzati sempre di più nell'ambito del digitale. C'è un aspetto di pirateria, cioè ovviamente chi scarica contenuti senza pagare, eccetera, che devo dire man mano si sta riducendo, perché l'offerta anche in abbonamento, anche estremamente, diciamo, attrattive, stanno riducendo la pirateria storica, ma dall'altra parte abbiamo soggetti cosiddetti over the top, insomma grandi aziende di comunicazione che utilizzano i contenuti, quindi i contenuti nei motori di ricerca, i contenuti nei link dei video che ci scambiamo spesso e volentieri sui social, senza che questo, diciamo, valore che i contenuti portano sia in qualche modo compensato, cioè è la differenza tra il valore che creano i contenuti nella rete e quello che ai contenuti viene restituito. Questo è il cosiddetto value gap, che è in questo momento direi il problema principale dell'industria culturale creativa, che sta tornando a crescere, perché il digitale è una grande opportunità, ma che potrebbe crescere molto di più. E la crescita di quest'industria, e questo va sempre ricordato, significa crescita di quest'industria italiana, cioè di posti di lavoro italiani e di valore in Italia. Ecco, se ho ben capito, però l'ipotesi è che non siamo noi come clienti di questi contenuti a pagare di più o a pagare tout court, visto che delle volte sono gratuiti, ma voi dite che sono gli intermediari tecnici, cioè i siti, diciamo in maniera un po' banale, i motori di ricerca che li supportano, che dovrebbero retrocedere circa metà del valore generato a chi questo valore l'ha creato, che non sono loro, loro sono dei tramiti. Si parla di circa 200 milioni di euro all'anno, no? Assolutamente, queste sono stime, naturalmente, ma si parla soprattutto di un sistema che crescerà e che cresce anno dopo anno in maniera molto importante, a doppia cifra. Quindi è come dire, ma faccio l'esempio dei giornali piuttosto che dei contenuti anche di un editore radiofonico, tutto quello che noi produciamo gira nella rete e aggiunge valore appunto ai motori di ricerca, aggiunge valore ai social, e in qualche modo da quel valore viene come dire... No, ma io guardi, adesso sarà perché ci tocca direttamente, ma è ovvio che nel momento in cui la puntata di Focus Economia, l'intervista o la dichiarazione viene messa in rete e va su un canale social piuttosto che su un motore di ricerca, e lo dico agli ascoltatori che stanno scrivendo, io non ho nessun guadagno, nel senso che non vedo un euro. Il motore di ricerca o, peggio ancora, il social ci fa sopra contenuto e qualità, non sua. Allora, nella vita i diritti si pagano. Nella vita i diritti, una parte di quel valore. Nella vita i diritti si pagano. E quindi non è tanto far pagare di più il cliente, perché nessuno vuole che un diritto che tu hai che un qualcosa che tu hai preso senza crearlo venga fatto pagare al cliente. Però non è neanche accettabile che i vari Facebook, cito i casi eclatanti, insomma, Facebook, Google, i motori di ricerca, o i social che si avvantaggiano moltissimo della produzione di contenuto, beh, lo abbiano tutto gratis. Questo è abbastanza, a mio avviso, scandaloso. I diritti si pagano dovunque, si pagano anche nei contenuti di carattere creativo e editoriale. E qui c'è sempre stata una poca capacità di incidere su chi si avvantaggia. Voglio dire, se voi levate i contenuti da Google, che cosa resta di Google? Se levate i contenuti da Facebook, resta un modo molto simpatico per fare amicizia e darsi appuntamento all'aperitivo. Lo dico male, ma insomma ci siamo capiti. Veniamo invece alla parte che riguarda la pirateria, perché qui invece siamo sul fronte illegale e basta. Non è un problema di norma e di riconoscere diritti, ma è un problema di legalità. Voi stimate che la pirateria valga più o meno tra i 4,6 e gli 8 miliardi di euro. È molto ampio questo range, come si chiama in gergo, cioè questa forchetta. Sì, questa è la stima che ha fatto Ernst & Young, che ha lavorato sulla ricerca. E qui parliamo, intanto c'è la pirateria che conosciamo tutti, del prodotto fisico, che chiaramente è in decremento, ma che esiste ancora, CD contraffatti, DVD contraffatti, eccetera, eccetera. Poi c'è una pirateria invece digitale, che spesso e volentieri si manifesta su siti che offrono prodotti appunto culturali e creativi gratuitamente, che vendono pubblicità e che in qualche modo, non pagandoli, ovviamente hanno dei veri e propri, diciamo, vantaggi speculativi sul lavoro degli altri. Anche questo è un danno colossale. Quando dico danno, ricordiamo sempre che non è un danno, diciamo, soltanto agli artisti, eccetera, o alle aziende che hanno investito, ma è proprio un danno di posti di lavoro, cioè sono posti di lavoro in meno in carne ed ossa nel nostro paese. E qui che cosa è l'indicazione che noi diamo? Cioè quella di follow the money. Noi dobbiamo seguire i soldi, noi dobbiamo far sì che aziende che stanno investendo, magari a conoscenza o non a conoscenza, su siti che appunto ospitano contenuti illegali, dobbiamo impedire che venga venduta pubblicità su questi siti. Questo, ripeto, non soltanto a favore degli autori o degli artisti, ma a favore proprio del sistema occupazionale. Io lo spero, perché in questo caso qui non c'è un ragionamento su quale parte della filiera genera valore, come dicevamo prima, e quindi riconoscere il valore in chi lo genera, non solo in chi distribuisce contenuti senza pagare un euro. Qui c'è un problema di illegalità pura, e io so che delle volte ancora nell'immaginario collettivo l'idea della pirateria non sia una cosa, vabbè, però ragazzi, è un furto che va a ledere i diritti degli autori e i diritti degli attori. Poi uno può pensare che siamo pagati tanto o poco, questo non è un problema però, perché nessuno fa questo ragionamento quando vai da un medico, quando compri un libro o quando vai a comprare un cibo. Allora, è un furto bello e buono, ed è un reato bello e buono, che poi sia in alcune parti del paese considerato tollerabile è un altro discorso, ma non facciamo i Robin Hood senza lo sceriffo, perché qua non c'è nessun sceriffo, ci sono solo persone che rubano soldi a chi investe a rischi d'impresa, perché per ogni film, canzone, spettacolo teatrale o quant'altro che viene riprodotto, penso al supporto DVD ma non solo, ci sono tanti altri progetti che saltano, rischi d'impresa, soldi che vengono persi, insomma, e vai a alimentare la criminalità organizzata. Grazie al presidente della SIAE Filippo Sugar. Grazie a voi. E adesso con un volo un po' pindarico dall'industria culturale, intesa anche come industria creativa, andiamo alla Gran Bretagna. Qualcuno mi scrive: ogni volta che c'è un problema sulla Brexit lei gongola. No, guardi, io non gongolo. Chi gongola sono quelli che scrivono e dicono che la Brexit fa solo bene. Io sto agli atti, guardo, cerco di capire, prendo atto di quello che sta dicendo il governo britannico e delle risposte che danno le multinazionali e chi sta pensando a un trasferimento alla Gran Bretagna. Poi vedremo se la Gran Bretagna riuscirà, è tutto da vedere questo, a offrire vantaggi fiscali così forti da non avere un esodo di gruppi che erano lì collocati in quanto come sede europea a livello mondiale. Ne parliamo però dopo il traffico, perché oggi è arrivata una decisione importante della Corte di Giustizia inglese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Nicole degli Innocenti in collegamento con noi da Londra per commentare la sentenza attesa dalla Corte Suprema di Londra, che ha disposto in via definitiva che per notificare la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che cosa vuol dire? L'avvio formale, quindi non più solo diciamo come ipotesi, dei negoziati con l'Unione Europea per la Brexit, per fare in modo che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea, dovrà essere autorizzato da un voto del Parlamento britannico. Quindi il verdetto ha confermato quello di primo grado dell'Alta Corte, che già aveva dato torto al governo May, che aveva presentato un ricorso. Infatti è la Miller, che Gina Miller aveva fatto l'iniziativa, il governo di Theresa May si era opposto e la Corte di Giustizia le ha dato torto. Perché il governo diceva no, noi abbiamo il diritto di attivare l'articolo 50 d'autorità, perché c'è stato un voto del referendum, non dobbiamo passare per il Parlamento. Invece dicono attenzione gli giudici della Corte, la prerogativa reale dell'esecutivo non basta autorizzare Theresa May, occorre passare per il Parlamento, anche perché evitare il Parlamento equivarrebbe alla violazione del diritto alla sovranità parlamentare. Nicole degli Innocenti, buonasera. Buonasera. Allora Nicole, dal punto di vista concreto però, questo che cosa vuol dire? Perché io non penso che il Parlamento britannico possa andare contro la decisione referendaria dei britannici, sarebbe una specie di suicidio, prego. È molto improbabile che i deputati vadano contro la volontà popolare, appunto, anche se di misura il referendum ha vinto con il 52%. Contro il 48%, quindi i deputati non vorranno certo essere considerati nemici del popolo, fra virgolette, votare in modo contro la democrazia. Però quello che possono fare sicuramente è rinviare Brexit, quindi la Premier Theresa May ha molta fretta, ha detto che vuole invocare l'articolo 50 entro la fine di marzo per avviare al più presto i negoziati con Bruxelles. Questa tabella di marcia oggi il governo ha ribadito che intende rispettarla, ma se sarà possibile è tutto da vedere. Per esempio il partito nazionalista scozzese, che ha 54 deputati in Parlamento, ha già proposto 50 emendamenti alla legge prima ancora che il governo presenti questo atto parlamentare da approvare. Molti laburisti sono contrari a Brexit e quindi potrebbero votare contro, però il governo dovrebbe avere i numeri, dato che i conservatori hanno la maggioranza, dovrebbe avere i numeri per farla passare dal Parlamento. Il problema è la Camera dei Lord. Però una domanda, cioè adesso che interesse avrebbe il Parlamento britannico a ritardare? Perché tanto ormai la May ha detto che vuole andare verso una Brexit senza se e senza ma. C'è un voto del popolo britannico in cui ha vinto la stragrande maggioranza la Brexit. Che cosa servirebbe allungare di 3-4 mesi l'avvio del percorso formale se non far arrabbiare l'opinione pubblica? Chiedo. Per ottenere concessioni dal governo, perché i deputati contrari a Brexit, tra i quali ci sono ancora anche molti conservatori, ritengono che dicono che il trattato britannico ha votato per uscire dall'Unione Europea, ma non ha votato per una cosiddetta hard Brexit, ha votato sul cosa, ma non ha votato sul come, e che quindi spetta ai deputati decidere il come, ai deputati democraticamente eletti. Quindi si tratta, sarebbe per il Parlamento britannico, Camera dei Comuni in primis, e poi tu dicevi anche la Camera dei Lord, invece, in cui è più complicata la cosa. La Camera dei Lord è più complicata perché il Partito Conservatore non ha la maggioranza, e la grandissima maggioranza dei Lord sono fortemente filoeuropei. Inoltre, non essendo eletti, non si devono preoccupare di corteggiare gli elettori o di farsi vedere come particolarmente democratici, quindi possono tranquillamente votare contro senza troppe preoccupazioni. Di fatto poi la cosa più probabile è che la cosa passi, forse riuscirà anche a passare nei tempi che voluti dal governo, però diciamo che non è, la cosa è molto più incerta, e per questo oggi la sterlina è scesa, perché c'è ancora più incertezza di ieri, diciamo. E qui volevo arrivare, la sterlina è scesa sull'euro a 0,85, mentre per quello che riguarda l'euro sul dollaro siamo 1,07. Ribadisco agli ascoltatori, la Corte di Giustizia non ha detto che la Brexit non si può fare o si può fare, questo è fuori discussione, hanno votato e quella è. Ha detto che deve passare l'attivazione dell'articolo 50 per il Parlamento, e qui il ragionamento di Nicole degli Innocenti, che probabilmente, a meno che non vada diretta con una maggioranza schiacciante, i parlamentari potrebbero chiedere un'uscita più morbida rispetto a quella individuata nel discorso di una settimana fa da Theresa May, che invece era una hard Brexit, un'uscita too cool, senza se e senza ma. Grazie anche a Nicole degli Innocenti, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.